Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Nuova strategia terapeutica per la malattia di Crohn, patologia cronica, progressiva e disabilitante che causa un'infiammazione del tratto gastrointestinale. Uno studio internazionale pubblicato su The Lancet rivoluziona la strategia di trattamento della malattia e apre interessanti sviluppi. A Obiettivo Salute il professor Silvio Danese, responsabile del Centro Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali di Humanitas, che ha preso parte come autore allo studio. In questo studio la cosa più importante che è stata valutata è che mentre fino ad oggi ci siamo basati semplicemente sulla sintomatologia nel modificare la terapia dei pazienti con malattia di Crohn, in questo caso è stato dimostrato che non bastano solo i sintomi, ma si valutano tutti quei parametri di infiammazione, come per esempio la calprotectina fecale o la proteina C reattiva, per modificare la terapia con i pazienti con malattia di Crohn. Un'altra caratteristica dello studio è che questi sono pazienti di nuova diagnosi, hanno una durata molto breve di malattia e alla fine quello che è stato dimostrato è che trattare la malattia non solo con i sintomi, ma spegnere tutti i marcatori di infiammazione porta a un controllo migliore non solo per quanto riguarda i sintomi, ma soprattutto per le ulcere dal punto di vista endoscopico dell'intestino e nel lungo termine riduce il numero delle ospedalizzazioni dei pazienti. Buone notizie per chi soffre di emicrania. Uno studio effettuato all'ospedale Sant'Andrea di Roma suggerisce che lo shiatsu, letteralmente pressione con le dita, può rappresentare un trattamento adeguato, sicuro e senza alcun effetto collaterale per prevenire gli attacchi. A Obiettivo Salute il professor Francesco Orzi, ordinario di neurologia all'ospedale universitario Sant'Andrea alla Sapienza Università di Roma, autore della ricerca. È uno studio basato sulla tecnica shiatsu, che consiste essenzialmente in un massaggio, in una manipolazione, secondo delle regole codificate da questa disciplina, dei muscoli, delle parti che riguardano il collo e le spalle. Lo studio è di dimensioni relativamente piccole, quindi può essere considerato soltanto uno studio di tipo iniziale. Diciamo, l'importanza dello studio consiste nel fatto che c'è la potenzialità di un effetto non farmacologico, perché è noto che l'abuso di sostanze analgesiche o dei triptani, i triptani sono i farmaci che si usano nell'attacco acuto, ecco, l'abuso di questi farmaci può di per sé costituire un fattore di rischio per la emicrania cronica. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta video con Marco Bianchi, un'occasione da non perdere per imparare a cucinare con ingredienti semplici, gustosi e soprattutto salutari. A proposito di cucina, per voi cucinare è? Scriveteci i vostri messaggi sulla pagina Facebook e li leggerò in diretta insieme a Marco Bianchi. Noi ci sentiamo domani, Obiettivo Salute Weekend, sempre alle 12, quando scocca l'ora della salute. Un saluto da Nicoletta.